c'è qualcosa di strano, di inquieto nell'aria, no, non so cos'è. C'è qualcosa che mi prende la gola, che mi fa pensare a te. C'è una musica strana che mi porta un po' indietro, un po' via da qui. Un flauto dolce che suona nei ricordi, ma intanto io resto qui. Forse sono soltanto le nuvole amiche lì sopra di noi. Forse un ritmo biologico antico come il tempo che abbiamo noi. Ma com'è che non riesco a non piangere quando penso a me? Ma com'è che mi riesce così facile parlare un po' di te? Vorrei tanto avere un attimo di gloria per volare via da qui. Ho un levriero grigio e astuto che viaggiare certamente sa cos'è. Forse sono soltanto le nuvole amiche lì sopra di noi. Forse un ritmo biologico antico come il tempo che abbiamo in noi. Ma il punto è che torna primavera come sempre qui. Torna, non poteva ritardare, sai. Torna a avere un attimo di ossigeno dopo i giorni freddi di noia, di buio, di rabbia. Torna primavera come sempre. Sopra di noi, forse un ritmo biologico antico come il tempo che abbiamo in noi, ma il punto è che torna primavera come sempre. Ritardare, sai, torna a avere un attimo di ossigeno dopo i giorni freddi di